Non riesco in scooter a farmi la spesa, almeno. Tanto ci posso mettere due sedili in questa cosa che ho io. Sono batterie, attenzione. Il cliente è tutto batterie, non vende altro, non vende pezzi di cambio, non vende niente, solo batterie. Ripeto, io ho pagato una batteria che di solito ho pagato 300-320 euro dell'Harley, della moto, l'ho pagata 190 euro originale. Quindi la differenza c'è. Allora cioè, va bene, va bene. Già ci vado verso lunedì e vediamo quanto mi spara e così me ne prendo fra un paio di settimane, così me lo esco in scooter quando devo andare a farmi la spesa, perché è migliore le balle piene io di andare con le buste. Prova, un preventivo non ti costa niente fare, poi vedi un po' dove ti conviene la spesa. Va bene, dai, fai girare. Eia, ok. Avanti, Luca, tanto gli ha bisogno di poco queste batterie, che ti ha pigliato in mano. Cazzo. Ci vuole, non ti basta la carriola, cazzo. Non è pesato, 22 kg. 22 kg? Con le batterie? Ma stai scherzando, stai forse? No, non sto scherzando. Io non so quale metti tu, quale hai, Io ho quelle da 100 ampere, non so 22 kg a futettini, che sono molto di più. Guarda che pesano parecchio, e te lo sto dicendo, pesano almeno più della bombola, qui c'è poco ma sicuro, te lo sto dicendo. C'era la come si chiama, per poterle sollevare, quello sì, la fascetta, dalla parte all'altra, con lo coso, per poterlo sollevare, se no con cazzo ce la fai sollevare quella roba lì, non la sollevi così, fregatene. Pesa più il sacchetto di da 25 kg di cosa di calce. Dipende da quanto comunque pensano così, Antonio. Lasciate vedere a me che ce li ho cazzo da giometri anni le batterie fino a qui. Ora pesano così, queste agende. Ma tu quello che c'entra che ho io, stai tranquillo che pesano totalmente diverso. Ti faccio anche le foto. 100 ampere, cazzo, mica quello di Giampiero sono un po' di meno sono, ma a sollevarle io e Giovanna in due mi abbiamo dovuto prenderle, perché sennò Giovanna non ce la faceva né io né lì. Pesano parecchio. Non lo so, se tu ce la fai a sollevarle sono problemi tuoi, almeno 30-40 kg pesano quelle batterie, questo poco ma sicuro. Poi quando le pigli due per volta, ciao e buonanotte. No, cosa dici 30-40 kg? Ma va, ma fuori già qui. 30-40 kg ti capovolge la cresta che stai usando. No, peseranno una ventina di kg. Allora, quella da 280 pesa 35 kg. Allora, lasciala, devo dire, Antone, che ce li ho ormai da anni, queste batterie qua. Pesano così, pesano, Antone. Da 100 così, invece da 22 kg, 23 kg, da 200 pesa 35. Lascia, devo dire, ti sembrano più pesanti. Ma comunque sia pesano un bel, perché quando lo sollevate ti sto dicendo me ne vado alla mazza, a me e Giovanna, tutti e due, quindi non è che sono solo il solo, siamo in due a un certo punto, hai capito? Quindi bisogna, non lo so, io non so cosa dite, ma comunque sia pesano con le batterie e costano anche un bel. Io le pago 130 euro, vabbè non le compro a Sassari però. Giovanna, le comprate da fuori e pagate, mi sembra che sono 80 ampere, le pagate intorno ai 300-400 euro, una cosa del genere. Le mie costano 500 perché sono da 100 ampere ognuna. Quindi immaginati, io ho 1000 watt di, hai capito, di potenza nel motore. 100 ampere costa 124,90 compresa la spedizione della Yadu Solar, poi non so cosa usi tu. Non lo so, io ti faccio vedere, cioè ti faccio la fotografia e te lo faccio vedere. Non mi costa niente, puoi fare. Fate vedere la foto della batteria. Le buone che uso io sono della Greenline, sono a Ferricalenta, al GM. E costano solo 200 euro. Qua, prese qua. Se magari su internet le trovi anche di meno. Ah, io la prendo su eBay, le prendo di oggi. Costano così, ce n'è un po' di diversi prezzi naturalmente, c'è quello che era da 120, c'è quello che era da 100, 124, dipende da chi, bisogna sempre burrugia, comunque è 100 ampere da 12, da 12 volt. Io ho due pannelli, ho fuori cristallini. E ne ho due da 150 ampere. Sì, ma non ce l'hai, cioè ce l'hai a casa o anche tu hai il camper? Perché anche io ho il pannello solare, ma nel camper. No, io l'impianto di casa è fatto, il mio, è fatto tutto dai pannelli fuori solari, capito? Tutte le luci io ce le ho dai pannelli solari. Vabbè, sono ritornato, Sì, va bene. Ah, ok, tu c'hai gli accumulatori a casa, ho capito. Bello così. Ma dimmi una cosa, ma sei magari più informato di me, ma il contattore di casa ce l'hai staccato o comunque non ti puoi staccare dal contattore? Perché io mi sono fatto il preventivo per casa mia, però mi hanno detto che dal contattore non ci si può staccare, è giusto? Sì, esatto, per legge, esattamente, e poi ti danno un massimo di potenza anche eccetera eccetera. No, io ho solo le luci, tutte le luci, sia a terrazzo, sia dentro casa, tutto così. Poi in Cina ho comprato le lampadine attacco E27 12 volt che fa una luce a giorno, guarda, a giorno, credimi, e io ho tutte le luci però, capito? Non ho l'impianto prese, capito? Quello lì ci vuole una barca di soldi, una barca di pannelli, batterie, no? Un sacco di soldi ci vuole per fare tutto così. A me per darmi 6 kW mi avevano chiesto circa 40.000 euro, circa, cioè euro più euro meno. Costa, l'impianto così costa, poi il problema sono le batterie, ci vuole, io ho il regolatore di carica, due batterie, due pannelli, tutto l'impianto, passati i due cavi in tutte le cassette per staccato dalla 220, è tutto così. Sono piazzato tutto l'oro? E poi, vabbè, hai solo l'impianto luci, giusto? Ok, io ci stavo pensando, ma poi alla fine continuo a pagare la bolletta della luce, giusto? Continuo a pagare la bolletta della luce e poi a fine anno ti viene rimborsato qualcosa, così è. No, non ti rimborsano niente, ho fatto tutto io. Sono entrato dalle batterie, ce le ho in soffitta, i pannelli sono su una tettoia che ho, e poi sono entrato nella prima scatola della luce all'ingresso di casa, da lì ho viaggiato in tutte le stanze, staccando la 220 e collegando i cavi della 12. No, non c'entra niente né lei né nessuno, capito? Sono le prese, sì, le prese sono tutte collegate al contattore. No, perché io quando ho chiesto per avere l'impianto totale con gli accumulatori. Quindi praticamente la casa veniva alimentatore solo, esclusivamente dagli alimentatori. Però mi hanno detto che il contattore comunque non lo potevo staccare. E quindi alla fine la spesa che io faccio per piazzarmi il tutto, che poi mi hanno detto che la mano speravano l'avrebbero messa a loro, la spesa che costa tutto l'impianto, quando vado ad ammortizzarla lì, se continuo a pagare la bolletta e più devo pagare anche tutto l'impianto. Cioè, noi siamo in due, quindi cosa consumiamo? Se io ogni due mesi pago 100 euro di luce. Ah, non ti conviene, infatti, non ti conviene. Non ti conviene così, no. No, guarda, d'inverno è veramente una comodità, perché accendi le luci già dalle 4, cioè con le luci accesi, e credimi, è un risparmio comunque. Perché lì vai solo con i pannelli, con le batterie. E così che già c'è il risparmio, altro che. Ok, ma voi quanti siete in casa? Un tre. Vabbè, magari una persona in più conta, ma non so. Io avevo il gioco di staccarmi dal contattore, allora sì che l'avrei fatto. Ma se devo pagare la bolletta, in più pagare la rata di questo impianto fotovoltaico, quando l'ho ammortito io? Non l'ho ammortito più. Ma per legge non ti puoi staccare dal contattore, ti dicono, perché può succedere qualunque cosa e dice la luce da dove la prendi, poi se ti stacchi. Non è così, perlomeno io non lo farei a staccarmi del tutto dal contattore, perché veramente può succedere qualcosa e sei a piedi. Sì, vabbè, cosa può succedere? Mi succede più adesso che sono allacciato normalmente al contattore, che mi manca la luce, rimango senza ore, come stasera, sono rimasto ore senza la luce. In quel modo lì hai sempre la luce sicura, perché mi hanno detto che anche accumulano anche quando mi svolgo. Sì, quello sì, anche perché il tipo di regolatore di carica che ho io accumula anche con le nuvole, anche se nuvoloso. Pensa che quando è venuto quel tipo che hanno cambiato i contattori da poco, no? Ha detto devo staccare le luci, all'ingresso si vede nuda, però aspetta che raggiungo la luce, si è staccato il contattore, che lo devo cambiare, ma io la luce ce l'ho stessa, ma che cantando. Secondo me è tutto un qualcosa per non farti staccare dall'Ener. Perché poi alla fine hai molte più probabilità di rimanere senza luce dall'Ener che facendoti l'impianto come sto dicendo io. Perché con l'impianto come sto dicendo tu ti guardi il regolatore di carica, che punto sei, capito di carica e te lo regoli tu. L'Ener ti manca la luce, ti ripeto, stasera siamo rimasti stasera senza luce. Senza luce a casa, frigo spento, tutto spento. E in quel modo là c'è sempre la luce, verso quello ed è una cosa che non si può staccare, perché devi continuare a pagare l'Ener. E comunque c'è l'inghippo per poterti staccare dal contattore, perché poi informandomi mi hanno detto che devi far risultare la casa sfitta, praticamente cambi la residenza, devi far risultare la casa sfitta e poi staccati dal contattore. Cagna, un travaglio. Ma adesso ci sono quei pannelli senza bisogno di accumulo, che va direttamente in rete, addirittura. E quello che dico, poi non so se è vero o quanto convenga, è che quando tu non consumi, ciò che appunto sta producendo il pannello va in rete e l'Enel addirittura ti scala dalla tua bolletta, in più, se ce n'è anche in più, ti pagano loro. Poi quanto sia veritiera questa cosa non lo so, capito? Tu devi solo montarti i pannelli, ci sono le agevolazioni e la corrente che consumi, cioè se i pannelli non ce la fanno, naturalmente c'hai quella della rete, però se ne hai in più, che per esempio non stai usando determinate cose a caso o che i pannelli stanno producendo di più, vai in rete e te la pagano loro addirittura, dico, e lì monti solo i pannelli. Allora, io e i miei colleghi l'hanno fatto, non lo fanno più perché quelli sono gli impianti vecchi. Allora, funziona così, che tu hai un contratto da 3 kW, ok? Inizia a accumularne super di 3 kW, inizia a accumularne più di 3 kW, ok? E mandi in rete, però tu vai e paghi un kilowatt ora, non so quanto sia il kilowatt ora non lo so, però quello che ne so, tu fai un kilowatt ora a 50 centesimi, sono cifre, attenzione, sto dicendo io adesso, loro cosa fanno? Cioè, è vero che se la pagano, ma invece di pagarti il chilo mazzola a 50 centesimi, quanto è, te lo pagano a 5 centesimi, quindi capisco quella convenienza. Infatti non c'è. Aspetta, se non facciamo troppo coso. Antonio, ci sei ancora? Questo vai, lo scuote compresso. Batte via. Aspetta, guardo. Ola ola e, ola ola e. Uia. Secondo me si trova a fare così, senza di nulla, bello nascosto, e chi li vede i pannelli? E c'è la corrente gratis, per una parte. E quello poi quando ti metti un ventolo, ti costruisce una ventola, eccetera, eccetera. E ti dà corrente elettrica, solo bastano due magneti e c'hai la 220, su YouTube ce n'è tante di queste cose qua, basta sapere costruire, non ci vuole molto, e ti risparmi la corrente, per caso. Aspetta un attimo che rientro subito. Oggi c'è anche l'eolico, costa una cazzata, da 500 watt in Maringoscia, 400 euro. Anche quello lì, per chi abita in campagna, per dire, è comodo, perché comunque sia il vento, no, bene o male, non manca mai. Così che le batterie, giustamente, ha il suo regolatore di carica, non è lo stesso regolatore che usi con i pannelli, dei pannelli solari, però conviene, caspita. L'eolico che usano le barche. Uso l'eolico che usano dare, che è uguale lì, non cambia niente. Non so se sono a corrente, poi mi sono informato da queste cose. No, è l'eolico che usano le barche, uguale lì. Perché le barche ce l'hanno? Delle verità, le barche a vela, in cima all'albero maestro, che hanno quelle, quella cosa che gira, l'eolico. Da non confondere con l'anno maestro. Si produce la corrente. Certo, produce corrente. Non l'ho mai visto, no. Cioè, non lo sapevo, dai. Non lo sapevo che era fatto così. L'eolico, quelle pale che girano a bordo, con corrente. Sì, ma non l'ho visto sulle barche, quello lì è... sembra così, mi aiuta tantissimo. No, io ci ho messo il regolatore, l'MPPT. MPPT che veramente ne con l'altro, cazzo, quando era nuvoloso, non ce la faceva a caricare, non ce la faceva assolutamente, quello normale. Allora l'ho preso su Amazon, l'ho pagato 110 mi sembra, ma è grande, l'MPPT è tutta un'altra musica, capito? Le batterie sempre, anche se nuvoloso e piove, loro caricano lo stesso. I nuvici, ma i vecchi no, i nuvici, anch'io nel camper ce l'ho, anche quando è nuvoloso carica lo stesso, ma un po' di meno di quando c'è sole pieno, però carica. Sì, quello sì, però è molto utile, molto molto utile, ma io ce l'ho fuori appeso sotto la tettuia, l'ho attaccata al muro, perché poi i cavi salgono in soffitta e vanno alle batterie, quelli dei pannelli naturalmente, il cavo scende al regolatore di carica e poi va sempre da soffitta, ho fatto un buco, sono entrato dentro casa e sono andato alla prima scatola di derivazione all'ingresso di casa e poi da lì ho viaggiato tramite il corrugato. Sì, ho capito benissimo. Però sai cos'è? Che quando le batterie scendono più leggermente meno della metà, fa molta fatica, perlomeno nel campo, fa molta fatica a ricaricarle. Come tu vogliamo suonato? Fai. Io non posso rientrare tanto bello. Ok. Comunque le mie le moto 2 c'ho il caricatore a 24 volt per quello scooter, quindi in pratica ne vengono caricate due. Però c'ho la potenza da 1000 watt, quello che c'ho io, lo scooter. Quello mio fratello è molto più piccolo, però cazzo cabina, sarà 50-60 larghi, una cosa del genere. Cazzo quanto cammina, sembra un coso, sembra un tipo un cavo armato, un bar. No, non riesco a vederle bene le batterie, non riesco a vederle bene. Sulle grandi tab non ce n'è di scritta, non c'è niente. Sono rosse, già ti faccio la foto domani, tanto lo puoi scegliere domani in garage, ti faccio la foto e così le vedi. Aspetta, controllo, forse ce li ho, se le ho fotografate, aspetta un secondo, lo voglio controllare. Sono 24 allora queste. Sono 12 e 12, 24, sono collegate in corso. Capito? Anche mi fate la stessa cosa. Quindi sono 12 volts ognuna. Ne monta 2, quindi sono 24. Aspetta, controllo se riesco a trovare. Perché avevo fatto, mi sembra, la foto delle batterie per poterle trovare su internet. Aspetta un secondo. Ma le trovi queste, guarda, se sono 12 da 100 ampere le trovi, ma sono le classiche a scarica lenta. Mi hai mandato un video poco fa, sono riuscito a aprirlo, lo sai? Non ho capito. Mi hai mandato un video e non sono riuscito a aprirlo poco fa. Capito? E come mai? Aspetta, sto provando. Che cazzeria è questa? La pubblicità è buona. Soluzione base di origine. Mi stai dicendo? Ma aspetta, sto guardando. No, vedete, metto la cancellata. Non la trovo. Vabbè, domani faccio la fotografia, non è quello il problema. Comunque la macchina è alta, quindi la macchinetta, lo scooter, l'ho controllato bene, 4.900 euro, il libro dei due, io l'ho pagato poco, quindi quasi regalato, a un certo punto ho fatto l'affare. Macchinetta di quelle? E quelle per anziani, per esattezza, non per invalidi, per anziani, c'hanno la sedia che si può girare, la puoi girare da parte all'altra, eccetera, eccetera, hai capito? Ma l'ho già mandato quello. Dunque si può piegare, la mano dietro, eccetera, l'unica cosa sono le batterie che pesano, cazzo, che cosa male, ma... è così, vabbè, adesso vediamo un po'. Vediamo un pochettino di mettere in moto quest'estate. Adesso l'inverno non conviene, ora che te lo tengo a fare in giro. Vado in giro, guarda, pigliami l'acqua, non saranno. Devo chiamare una giubilia di un bel tema. Sono tutto un disagio di cielo, una massa di linguaggia. Ti avevo visto già l'acqua. Sono andato con Giovanna giusto in tempo via a farmi la spesa. Sono entrato a casa, gli ho detto bene, le sta scendendo l'aria e fa poco. Infatti era così. Beh, comunque anche a me costano così con le batterie. Ne hai due, ne hai in serie, giusto? Ma costano così, capito? Vai tranquillo, costano così queste batterie. Oh, scusate, devo andare via, è venuta gente. Ciao ragazzi, piacere di avervi salutato e grazie alla chiacchierata. Sentimi in domani, ciao. Ciao Gino, alla prossima. Ciao Gino, ci sentiamo alla prossima, stammi bene. Vabbè, ora ci posso fare, costavo quel pezzo. Ci vediamo un po'. Me le ordino con calma, tanto c'è tutto l'inverno, intanto l'inverno non devo usarla, quindi l'importante è aver fatto l'affare per prendere quella macchina, poi per quanto l'ho pagata mi sta benissimo. Allora intanto per i saluti, se ci sei. Saluto l'Eugenio, per sentire la prossima. Ma che macchinetta è? Sono scooter per anziani, 4 ruote. C'ha le luci davanti, le luci dietro, vabbè, il cestino l'ho fatto togliere perché non me ne sbatteva un cazzo il cestino davanti, se no sembrava una femmina. quindi in pratica c'è tutto il posto per metterci, a me mi interessava più che altro per farmi la spesa, per metterci due borse di spesa, ci sto giusto, quindi a voglia, mi va benissimo. Poi quando, una volta arrivo lì dallo spillo, parcheggio, ci metto due buste piene, prendo e salgo, poi lo metto nuovo in garage, non mi interessa niente. Sto cercando la mia amica, sta cercando di quella parte di quelli lì che hanno un po', che è invalida. Quanto hanno la faccia? Sono le batterie da cambiare? Sì, sono quelle e basta. Perché qui sono tutta smontata. Secondo te cosa facevo? Cazzo, dovevo togliere fuori le batterie. Volevo tappare le batterie. Gliel'ho tolte. Ho fatto, anzi per mio fratello il casino è stato peggio, perché quando il mio fratello aveva incassato le batterie all'interno, capito? Abbiamo dovuto smontare tutto lo scooter, ripiazzarlo di nuovo. Tu immaginati, cazzo, il piazzale tornava il pezzo di sopra, eccetera, una volta, e poi gli ho messo che mancava il capo, ho comprato da Portobello, 300 euro aveva pagato mio fratello. Poi ho messo il tappo dietro di un alimentatore, ci stava giusto, ho messo due viti sopra, è perfetto, non si vede niente. E funzionava una belletta. Che le comprate con le batterie già morte così e provate a caricarle? Provate a caricarle, purtroppo già lo sai, quelle batterie una volta che sono fottute non caricano. A meno che non le apri, come hanno fatto vedere il video da poco, non hai visto il video? Ci metto un liquido cinese, ma non si capisce cosa sia, sembra acqua, ma non lo so cosa diavolo sia, si possono aprire da sopra. Ci metti quello e le rimetti nuovo in moto, in pratica. Hai capito? Io non voglio. Non so come si rimettono a posto, come si rigenerano quelle batterie, ma penso che si possano rigenerare, non è possibile che quelle batterie le butti così. Come non si buttano tanto meno quelle dell'auto, che ci metti l'acqua distillata e con l'acido le rimetti in moto. Ma con questo non ti fidare, Antonio, sono ermetiche, non ti fidare. Ti ho detto, costano un centinaio di euro, sicché con 200 euro, infatti ti conviene adesso che l'inverno non la usi, oggi te ne prendi una, domani ti prendi l'altra, e quando l'estate sia a posto. Cosa sono? Piombo gel? Al gel sono, ma non so se sono piombo o vediamo cosa sia. Ciao a tutti, ciao Luca. Buonasera. Buonasera. Sono la G 100 ampere, quella che ho io, la potenza dello scooter che ho io è 1000 watt, quindi ha voglia che cammella. Mi pare di quelle ce ne sono di due tipi, una è piombo gel, c'è un gel, no? Dove passano comunque gli elettroni e tutto. E l'altra invece è un liquido, c'è una specie di struttura fatta di fibra di vetro, tipo nido d'ape, proprio piccola, e in mezzo ci passa il liquido praticamente. Serve, dice, anche a perdere meno, evaporare meno, non mi ricordo. Luca ne saprà qualcosa di più sicuramente. Ma io ho le classiche. Ecosolar. Mi raccomando, Antonio, quando ce l'avrai fagli, non dico manutenzione perché sono sigillate, però cerca di ricaricarle ciclicamente, non le lasciare arrivare a zero o roba del genere. No, tranquillo. Ho già appena stavo facendo così con la sua. Quando arriva a metà, immediatamente carichiamo, c'è il caricatore con. C'ha tre pollici, ha caricato tre punte, hai capito? Sinistra dove c'è il mouse o cosa del genere, oppure l'attacco come ce l'ho io nel manubrio, e ti ricarica la batteria, hai capito? C'è la centralina dietro, c'è tutto, eccetera, eccetera. Allora, Marco, l'antenna com'è? C'è stazionario? No, Anto, a parte oggi che non ho controllato, tranne quel fenomeno isolato, l'antenna sembra tornata normale, non me lo so spiegare. qualche cosa. Io ho 9.25 qualche cosa adesso. Di segnale c'hai tu, quindi ieri invece mi ha dato problemi a me la mia, è come se non ci avessi massa l'antenna, il lineare pilotava solamente 50 watt, oggi ne pilota 100, quindi figurati il problema è quello, se tu vedi una cosa strana sentato il palo, hai capito, bisogna salire sopra, pulire un pochettino il palo e riagganciare tutto quanto come la prima, evidentemente c'è quella pera di ossido o qualcosa del genere. Sì, ma a meno che qualcuno stesse giocando qualche magnete lungo il cavo, cosa ne so io, non si capisce come mai quel fenomeno strano. Scherzi, da prete li fanno. Da prete. No, da prete no, ieri adesso l'ho accorto io. Stavo modulando col baracchino tutto un tratto e mi sono visto la... Ho detto che strano, il lineare mi dà solo 50 watt. Controllo e... Secondo me è proprio una dei massa. E infatti mi sono sbagliato, oggi che ha piovuto il lineare sarà 100, sarà. Figurati, e sto usando 4 watt uscita, messo in questo apparecchio qua, sto usando il codice 4000 tuo. Oh, è sempre qua quell'apparato, è incredibile, guarda. Lo so che è incredibile, ma vero, funziona benissimo, è una bomba questo apparecchio qua. 4 watt a 10, giusti, 4 watt e mezzo. Stazionari 1 e 1, adesso ho attaccato il coso, il lineare, faccio scaldare e poi vediamo, arriva fino a 100 arriva. Sì, è vero, ogni tanto varia in base alla, non so, la corda dell'antenna, l'umidità, la non umidità. Tutto dicendo, è questione di coso, di massa di antenna. Il palo lo sai che tu sei un sacco di anni, quindi a un certo punto tu devi anche aspettare, quindi bisogna che molliamo appena l'antenna, la scendiamo leggermente giù, graffiamo un pochettino con la carta abrasiva, poi ce la rimettiamo dove era agganciata prima. La verità è che l'antenna fa di nuovo massa, e il problema è quello, capito? Non c'è altro problema, me l'ha fatta a me, qui abbiamo la stessa antenna, vuoi che non me la accorga. Io sono anche senza radiali e di più me la colgo subito. Tu almeno c'hai tre radiali, quindi non te ne accorgi, i radiali stessi ti fanno la massa, invece qua no. Ecco qua, adesso sono attaccato, sono 50 appena acceso. Si satura però, è un peccato Antonè. Vabbè, l'ho accordato. È a valvole questo, già lo sai anche tu. Non è un transistor, quindi... È molto saturato. Quando arriva l'accordo giusto, verrai tu la scena. Esce meglio. Schiaccio, meno quasi 50, piano piano sta salendo, prendo salendo, 50 in questo momento tondi, 55 quasi, ora, quindi piano piano, stazionarie, esce a vedere, 1, 2, 3, sono tra la stessa radiale, va bene, la verità, va veramente bene, il discorso è quello. Io sono sempre radiali, se ne metto radiali la faccio diventare come quella di Marco. Sì, ma io così sto uscendo, Antonio. Come così? Come Antonello, saturo o no? No, assolutamente. No, Antonè, tu dici a valvole satura per forza, no? Al contrario, a valvole io avevo avuto il BV131 secoli fa, ma era limpida, mi ricordo all'epoca. L'importante era accordarlo bene e non saturava, transistor saturava. Vabbè, ma devi contare che io l'ho staccato accendendo, l'ho appena acceso, quindi la valvola deve scaldare, lo sai anche tu, io l'ho fatto a freddo, che non si fa a freddo, in pratica, no, una cosa del genere, devi però aspettare un altro minuto, un quarto d'ora. Sto accordando, piano piano. Adesso 60, 10 watt in più sopra. Già sarei fino a 100, adesso aspettano un 4 d'ora 20 minuti. Via. No, vabbè, infatti lo devi lasciare in stand-by, se prevedi di usarlo. Lo lasci in stand-by e il filamento scalda e poi attacchi. Va bene, riprendete, dai. Io ero da un po' la scorsa, stavo saldando, mi si è risaldato un cavettino della ventola, che più sottile non poteva essere, allucinante. Non ci vedo più io, non riesco più a saldare, bisogna degli occhiali, quelli per ingrandire. Riprendi, Luca. Li voglio occhiali, quelle che americane, che ce ne sono nuovi nuovi. Come? Se li voglio occhiali, quelli americani, che ce li ho nuovi nuovi, non fai altro che regolarli a un fianco e all'altro, perché ricordi la pubblicità, c'hanno la manopolina a un fianco e all'altro e si spostano le lenti. Ce li ho, ti ingrandiscono oppure ti diminuiscono, dipende dal costo. Se li vuoi ce li ho, sono scatolati nuovi nuovi. Vieni a casa e ti riprendi. No, non sono a posto, ce li ho appunto, però li devo usare, se no non vedo più un cavolo. A parte che non trovo più lo stagno buono, quello fine, tutto qua, tutto toccato qua, non so dove va la roba. Vabbè. Che passate, maresciallo Madoglio? Ah, già lo sai anche tu, sì. Già me ne detto. Adesso fa poco non troverai manco più i baracchini, cazzo, troverai dentro il cassonetto, a Dio. Vabbè, quello sì, perché qua praticamente la roba viene spostata da sinistra a destra, da destra a sinistra, alla fine sono spostare roba, cosa serve? Certe cose non è che le puoi buttare, no? Tu bisogna che ti prendi tutto, ti prendi è meglio che ti compri un armadio, gli metti un lucchetto, ci metti un lucchetto e lo lasci chiuso, te lo dico io, sta tranquilla che il maresciallo non ti tocca nulla. Tu dici, ma questa roba è roba mia, non ti preoccupare, tu vai alla tua parte e fai quel cazzo che ti pare ti piace. Ci ho pensato a mettere anche una serratura volante. Appunto, li metti due cosi, due occhielli, una parte, una volta li metti il lucchetto, e ci metti tutta la roba tua, apparecchi, baracchini, alimentatori, quello che ti piace, cavi, cavetti, cavetteria varia, dopo tutta la roba di elettronica, la metti tutto quanto va dentro, ma tu, non si tocca un cazzo, quando entra lì, Marco è roba sua, la chiave ce l'ha lui, non puoi toccare niente, tutto il resto lo puoi toccare, guarda che tutto quello, tutta l'altra roba che c'è, almeno sei più tranquillo, che cazzo sono, sei fregato così. Ehi. No, che poi ogni tanto chiedi, se questo ti serve? No, l'ho comprato per buttarlo, buttalo, se non me ne frutta a me. Così facevo una volta mia madre e mia sorella, quando ero ricetto. Leva la roba, pigliava a cazzo da papà tutto. O sai quanta cosa ho dovuto comprare nuova a cazzo a quelli che mi davano la roba a riparare. Nello storia magari andava a riparare, mancavano tutte le viti, cose del genere, ci buttavano tutto, hai capito? I pezzi che dovevo comprare. Allora, a un certo punto cazzo, mi toccava andare a comprargli lo stereo nuovo a questi cazzo. Mi sono incantato due volte, da quella volta lì, ha detto no, basta, insomma, la questione è finita, direi. Prendo la roba, ce la metto dentro l'armadio, a me non l'ha toccato, ho messo due occhielli, un lucchetto, da lì non toccavano più niente. Quando uscivo lasciavo il tavolo bello, tranquillo, senza niente sopra, e loro potevano pulire tranquillamente in terra. È brutto quando si toccano la roba. No, Beh, questa è la scusa di mettere in ordine, sì, ci aiuta, però alla fine la roba me la trovo spostata, devo andare alla ricerca. Se io nel mio disordine gira trovo più roba che non quando è in ordine. Capito tanto. E vabbè, là, fa niente. Ha visto, è giornata brutta, freddo, pioggia, uno schifo, domani è lo stesso, non fa uscire, non fa fare niente. Come? Lavoro, non è lavoro. Devo andare a lavoro. Domani è domenica? Oh. Cosa fai? Purtroppo, tocca travagliato, cadiamo rifatto a meno, ma tocca andare. Dove per carità, guarda. Quando vai in famiglia, tocca farti venire la voglia. Eh sì, lo so, lo so. Matto, controllati quel microfono. È quello col colore, quello grigio, è quello capito. Una volta ti si abbassa la modulazione o la batteria. No, qua nuova, non mi sanno qua nuova. No, perché sono io che non schiaccio, capito? Ok. No, credevo dipendesse da me. No, no, negativo, sono io che mi ho fatto un schiaccio bene. Un po' più massimo non vorrei che sentirlo. Gli altri dicendo tutti non ho problemi, però gli altri Vai Marco, che sono al computer. Ah, hai visto il video, Marco? No, non vi capisco oggi, dimmi Luca. Ho detto, hai visto il video? Il video della l'alloggio per lo strumentino? Sì, ho risposto anche, un po' in ritardo, ma ho risposto. Ho detto, bisogna chiamarti a tabetta, cioè, sempre in ventenni. Sono brutti nudi quei così lì, per forza. Vabbè, dai, che sono al computer appunto, che sto facendo sempre quelle delle robe del genere. Ciao, vabbè, già sono in ascolto. Vai tu. Che bagappa. Che mistero. Avanti la parte di nuda. No, io poco fa ho fatto molta acqua, ho provato, Marco si muove, funziona benissimo, funziona, ma a me non mi danno più un problema. Meno male, cazzo. Anto, scusa, ma per mai che sta andando male però, cioè, a momenti è come più basso, poi di botto sparato al massimo, poi più basso, tutto un po' così, dai, e capisco poco. Ora, come sto facendo così? Ora, aspetta un attimo, bene, dai, io mi sono scocciato degli amplificati per quello. Alla fine compro le batterie, si scaricano anche da sole. Per quanto lo uso, preferisco il mai che è normale. E buonanotte al secchio. Come esco? Ma questo qua non lo potrebbe fare questo. Capito? Aspetta a vedere. Adesso ho messo la modifica, come troppo forte. È troppo, poi si sente l'effetto stanza. Beh, ora è normale, mi sembra stia funzionando. Eppure a caso, cioè, ho dato 2 anni la batteria, ma niente. Boh, che strano, l'ho appena cambiata in questa. Sta andando bene adesso, però. Sì, già me ne accorgo già che sta andando bene. Ma l'apparato qual è, il portatile? No, questo è il Superstar. Di nuovo l'ha fatto però. Vabbè Antonio, futidini, se trovi il Mac normale, al limite puoi usare quello. Non lo so, bisogna controllare il tuo microfono. È strano, perché perché al momento va perfettamente, poi si abbassa, poi si alza, controlla lo spinotto, se ci sia qualche filo. Arrivo subito, due minuti. Ok, allora. Andiamo per controllare quel sono 48, perché io la verità preferisco utilizzare il 48. Mi piace molto, capito? Ma non questo sia un cannonato. Perlomeno a me piace molto. Andiamo. Fai questo è super fatto. Va benissimo. Gappa. Prova a mettere la portante fissa, a bloccare il microfono tu. Fempax, bloccalo e fai un passaggio tu, senza toccare se cosa può essere. Allora, uno, due, tre, prova. Ora adesso va bene. Sembra che... adesso è andato bene, non l'ha fatto. Ma che cosa è? Bene, adesso l'ha fatto di nuovo. Lo so, c'è qualcosa che abba che me ne accorgo. C'è qualcosa che non va più cazzo del microfono. Sì, allora è nel PTT probabilmente. Perché quando l'hai bloccato non l'ha fatto. Aspetta che non te l'ha bloccare. Ma già l'ho fatta. Vedi, nel PTT deve essere allora, perché se lo blocchi a quanto pare non lo fa e magari vuole pulito lì il pezzo. Vabbè, quando me lo avvicini al limite può capitare lui. Che va. Va bene, state solo al computer, dai. Ciao, saluta a tutti. Io mi accendo il computer, signori, dai, buona serata a tutti. Ci sentiamo. Spariti?